1863. La nuova Italia è analfabeta all'80%. I numeri sono stati presentati il 31 dicembre 1863 a cavallo della fine dell'anno, a 2 anni esatti dalla data ufficiale del censimento e a 3 dall'introduzione della legge Casati sull'obbligo scolastico. E i numeri, che sono impietosi, dicono che nel Regno d'Italia su 21.777.374 abitanti gli analfabeti sono quasi 17 milioni, mentre 3,8 milioni sono abbastanza alfabetizzati e poco meno di 900.000 sanno appena leggere. Di fatto, l'80% della popolazione è priva di ogni istruzione, il 74% degli uomini e l'85% delle donne. In alcune aree del sud, però, gli analfabeti arrivano addirittura al 95%. Se la legge Casati ha sancito l'obbligo del primo biennio elementare, non ha fissato sanzioni per gli inadempienti, e questo è un primo problema. Inoltre, in una situazione in cui il 70% della popolazione è dedita all'agricoltura, anche i bimbi piccolissimi sono considerati indispensabili per portare il pane a casa. Ma c'è anche un altro problema, denunciato persino dal vice direttore della Scuola Normale di Sassari, cioè di un convitto per i figli della piccola borghesia, non certo dei proletari. Or noi crediamo che il fondamento di una riforma vera e duratura delle scuole debba essere il miglioramento della condizione dei maestri. Ogni altra cura tornerà vana se prima non si eleva alla dovuta dignità la professione dell'insegnare e non se ne fa una carriera decorosa e desiderabile. Il minimo assegnato ai maestri elementari dalla legge del 13 novembre 1859 ci sembra ancor troppo inadeguato non solo all'importanza della professione, ma alle stesse necessità del vivere della nostra città. Tanto più che quella legge, vietando e con savio intendimento ai maestri di dar ripetizione ai propri alunni, sottrae loro una fonte di lucro destinata in passato a ingrossarne gli scarsi stipendi. Con 1.200 e molto meno, con 900 lire, non si vive tra noi senza grave disagio da chi ha costume civile e bisogni materiali e intellettuali superiori a quelli del volgo. Noi pensiamo adunque che sia appena sufficiente l'assegnare uno stipendio di 1.600 lire ai maestri delle classi superiori e di 1.400 a quelli delle classi inferiori, e così di lire 1.400 alle maestre del grado superiore e di 1.200 a quelle del grado inferiore. Comunque voi avrete dato almeno lo stretto bisognevole a chi consacra la vita all'educazione dell'infanzia. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.